lo metto a 10, vediamo. Ecco, a 10. Adesso la lancetta la potenza ferma è a 10. Però quando parlo, arriva sempre ai 100 qua. Nonostante che la lancetta col carrier l'ho stabilizzata a 10 watt, però parlando arriva sempre ai 100. È troppo tirata, quello che avevo io al 440 a 10 watt andava intorno ai 40, non di più. È troppo tirata quella radio, madonna, mi asciuga. Troppo. Lasciala a 10 watt riportante bianca, Giulio, non la mettere a 40. Mettila a 10 watt, massimo 20 watt riportante bianca, in modo che non sfrutti molto lo stadio finale, capito? È troppo, quella è tirata veramente, mi asciuga. No, io non ce l'avevo così. Il mio, sì, arrivava a 100 watt, però di picco. Di portante non ce li aveva, assolutamente. No, questa qua, veramente, io infatti quando è arrivata l'ho attaccata, l'ho provata, l'ho subito chiamata, ho detto, ma dico, mi hai abbassato la potenza, ma io non ti ho abbassato niente. È normale che quando io vado a lavorare su una radio così, è collegata al banco prova, io vado sulle caratteristiche tecniche della radio, vado sul manual service, mica te ti devo dare 100 watt, chi l'ha deciso che devo dare 100 watt? La radio deve funzionare così, io dal laboratorio te la faccio uscire così, qui sta a te, apri e ti fai quello che ti piace, però sappi che stai facendo un errore, mi ha detto, capito? Perché sicuramente sai benissimo dove è il trimerino, mi ha detto la resistenza variabile da tirare sulla potenza, poi sono problemi tuoi. Ma ho detto, io dal laboratorio te la mando come mi dice il manual service. Il manual service dice che quella radio in AM deve dare 40 watt, non di più, e io te la do così. Ok, perché te la devo dare garantita e te la do così. Poi sono problemi tuoi, mi ha detto quello che fai. Sappi che se bruci il finale e io mi accorgo che tu hai tirato la radio, io non te lo passo il finale in garanzia. Capito? Questo mi ha detto, questo quindi per me è oro, perché detto da un professionista bisogna accettare queste cose. Ho capito, sì. È vero, quando io aumento poco il mic gain, oltre uno, allora si incomincia a strappare. Sarà per quello, bravo. Evidentemente la LC è stata tirata, solo quello può essere, non può essere diversamente. Se mi avvicino troppo al microfono, infatti io muoio con tutta la lunghezza del braccio, perlomeno con questo microfono qua, sarebbe C60. Con questa, se mi avvicino strappo di sicuro, nonostante che magari è a uno appena, non più di uno, giusto, centrata con la tazza. Nonostante tutto, la lancetta praticamente arriva ai 100, anzi se parlo leggermente più forte supera anche i 100, figurati, per cui vedi bene, nonostante che adesso è stabilizzato 10 watt di potenza col carrier, è come segnare come arriva così a questa misura o a questo vantaggio che gli ho dato, come arriva, oltre anche ai picchi oscillante, dimmi com'è, sia stabile e sia di picchi. Hai registrato il becche? Guarda, sei 9, quasi 18 con picchi positivi a 20, quindi la radio sta andando più che bene, non bene, più che bene, vai benissimo Giulio, ti ripeto, io ho sempre fatto il contrario di quello che mi ha detto questo tecnico, perché anch'io la tiravo, facevo un sacco di stronzate, ma alla fin fine se tu vuoi che quella radio ti duri devi andare con la potenza minima che dice il manual service, con i suoi picchi di modulazione, farla andare normale. Lui che in banda laterale ne possa dare anche 150 PEP, quindi non c'entra assolutamente niente, però la M è molto pericolosa per queste radio, molto pericolosa, perché più la tiri e più scalda il finale. Infatti quella che avevo io, per esempio la ventola accesa, sempre in funzione entrava la ventola, questa ghiacciata, doppio fredda, normale, come che non la sto usando, perché sto lavorando proprio tranquillamente. Avanti Avanti Break, buonasera, Claudio Sparviero, Antonio Bombolo e Giulio Lollaro, chi è? Mi aspetta un attimo. E io, ma tu queste antenne che compri, Nicola, ciao, buonasera, ben ascoltato, queste antenne che compri, io voglio capire come le compri, perché stai continuando a comprare antenne e il segnale è sempre uguale, no, non capisco, vabbè, comunque, Santiago 7, radio molto molto bassa, sei in mezzo al QRM per me, ok? Avanti Antonio, sicuramente ti ascolta meglio perché sei più vicino a lui, avanti Antonio. Sì, Santiago Nova, Radio 5, sì. Sì, c'era Giulio, si è sentato un attimo, ma non so se ti ascolta, eh. Non so che antenna è dimesso, boh, non lo so, io lo sento basso, Santiago 7 è proprio in mezzo al QRM, la radio è molto bassa. Può darsi che modulano ancora, non lo sai, se non ti hai portato la radio lì. L'antenna sul tetto ti dovresti mettere per uscire un po' più forte. Fai parecchia fatica a farti ascoltare. Io ti ascolto perché sei vicino, ma Claudio fa più fatica di me. Ciao ciao. Ecco, sto rientrato intanto. Con che state parlando? Io non ho sentito più niente. Chi era? Lupo Grigio. Ah, Lupo Grigio, Cassettina, scoia. Se non si mette l'antenna, purtroppo non c'è rimedio. Non c'è rimedio, è inutile, l'antenna ci vuole. Ciao Lupo Grigio, ti saluto. Perché intanto so che mi stai ascoltando, però purtroppo è così. Avanti qua. Claudio. Vabbè, riprendi tu, evidentemente sei un po', si è staccato un attimino o altro, dai, riprendi tu. Capa, io ti stavo dicendo giù, che lo fa anche a me, io lo abbasso un po', ma lo fa anche a me quello lì, passa da 10 a 100, pum, pum. Sì, almeno questo evidentemente la LC è stato tirato, penso che sia così, perché se io dovessi aumentare un po' il volume dalla radio, che poi solo da lì lo posso aumentare perché il microfono, quello che sto usando adesso, non era di potenziometro per aumentare il volume, è quello e basta. Però allora è cominciato a fare. Perché cosa significa questo? Significa che evidentemente la LC è stato tirato, perché se no dovrebbe funzionare anche a 2, a 3, ma non solamente a 1. Io ce lo metto, ma cosa, tu presente c'è lo spessore di una cartina di sigaretta, della carta della sigaretta, quanto è sottile, è sottilissimo, no? Quando si è nascosto un tantino solo così già incominciato a fare. Evidentemente la LC è stato toccato qua, è stato tirato per quel motivo lì. Allora è stato per quello altro. Lo so come funziona. Lo so. È uguale, la stessa situazione. Devi tenerlo più giù dell'uno. Infatti, io non lo posso. Se invece stacco il processore, adesso lo stacco, mi sente più basso, allora posso aumentare anche a 1,5, 2 massimo, ma non di più, perché se no anche senza processore salterebbe lo stesso. Adesso stacco il processore, però il volume lo faccio sempre con me, mi sentirei più basso, aspetta, fammelo guardare. Ecco qua, adesso è senza processore, vediamo un po' l'oscillazione, com'è? L'oscillazione e adesso è molto più basso, adesso mi sono anche avvicinato al microfono, me la colgo dallo smettere, c'è un'oscillazione molto più bassa, dunque la radio è molto più bassa adesso, vai? Già lo so già come funziona, guarda, adesso, ho sbagliato il po'. Dopo mi vengo un miuca. Adesso giù, più bassa è la radio. Sì, leggermente più bassa, però si capisce bene lo stesso, è abbastanza, per la chiarezza è sempre 5, per la potenza si può suonare 5 perché non è bombardata, però è chiaro lo stesso, non c'è problema. Così è meglio, vero? Sì, così è più corposa, così ha una radio un pochino più corposa, si sente che c'è un'altra spinta, diciamo. Per cui, però va bene, a voglia, se va bene, considerando che hai l'antenna, mi sembra che era, cos'era l'antenna tua? Un quattro onda era, un mezz'onda, cos'era l'antenna tua? Non me lo ricordo. commento va? Non lo so, tu, quanto tu vuoi lo stilo? Te lo dico subito. Se lo stilo è intorno ai 2,75-3 metri, è un quarto d'onda. Se è lungo 5 metri, 5 metri 50, è mezz'onda. Se è lungo quasi 7 metri, allora è 5 ottavi. Non lo so, da che punto lo stilo tu? È quella che hai detto, la seconda, mezz'onda. Mezz'onda, allora 5,50 più o meno, insomma dai 5 metri più o meno, dai 5 metri. Sì, sì, allora mezz'onda, sì, deve fare sempre quel calcolo, no? Praticamente la cosa, la frequenza, la lunghezza d'onda è 11 metri, se tu hai l'antenna a 5 metri sei a mezz'onda, praticamente, 5,50 per l'esattezza, mezz'onda. Che poi non è tutto esattamente 5,50, può essere 5,30, 5,40, non lo so, ma comunque queste sono particolari poco interessanti, però arrivate a quella lunghezza, si sa, allora si può stabilire a cosa è nata l'antenna, a un quarto, a un mezzo o a 5 ottavi e così via. Poi se vai anche oltre 7 metri c'è anche la 3 quarti d'onda. Per cui insomma tante cose ci sono, ma comunque andare così da. Capa, però no, io mi ciappo bene, cioè non ho avuto mai tanti problemi. Capa, l'unica pecca che ho è che la devo salire un po' di più, ma adesso appena che mi dà il palo qualcuno la salgo un po' di più. Ma mi difendo bene, a me mi teneva per tutto ogni antenna, non ho mai avuto tanti problemi. Va bene, non mi posso lamentare. Sì, Anto, va benissimo, la voglia, la grande, ma te l'avevo detto io, ti ricordi quando eri prima basso ti dicevo sei basso di segnale, Anto, ti sento ma sei basso di segnale. Ma adesso già da un po' di tempo ti sto dicendo, ti sento molto bene perché hai tirato sull'antenna col tanto sufficiente per poter arrivare dappertutto. Certo, non ci sono dubbi. E tieni presente anche una cosa, che io, l'antenna che ho io, non è molto in alto, non ti crede che ce l'ho molto in alto. Io ce l'ho, immaginati un terrazzo, di mansarda, nel poggiolo praticamente, nel terrazzo di mansarda, ho messo due gaffe e ci ho attaccato il palo e ho un 2 metri e 50 saranno massimo, non di più, di meno sì, ma di più di coso, di come si chiama, di palo, è più l'antenna. Però quando avevo l'altra antenna, ce l'avevo esattamente almeno 6 metri più in alto, perché con la volta battumbo era tutta dall'altra parte della casa, anche che essere davanti, sai, c'è tutta la pendenza del tetto, dunque davanti la casa è più bassa dalla parte di dietro, e prima l'antenna era lì, era più in alto, di conseguenza più ricezione, più trasmissione sicuramente. Siccome era la rotta turbo è dato fastidio il vento, è per quello che l'ho tolta, però l'antenna io ce l'ho sempre, nuova, è meravigliosa, è straordinaria, funziona della meraviglia, però quando c'è il vento si sente la notte fischiare e non mi va quello, capito? Fruscia un bene, nelle case basse così, poi se la metti nel palazzo già non si intende. Appunto, diciamo che l'ho tolta per quello. L'avevo tolta per quello, allora cosa avevo pensato? Intanto perché così, solo per pura curiosità, mi avevo costruito l'antenna, io la canna pesca mi avevo costruito. Era utilizzata questa canna pesca per almeno 2 anni e mezzo, una cosa del genere. Poi l'ho tolta e adesso ce l'ho originale, adesso è la Gamemaster originale, è questa. Allora sempre nel punto basso, Antonio, se io la sposto, la metto su dall'altra parte, sicuramente dovrei anche migliorare, ma non è il caso, perché viste considerato che arrivo dappertutto, anche quando c'è preparazione, arrivo anche all'estero, per cui va bene così, non c'è preparazione. problema, che motivo c'è di mettermi la patellata quando lì sono bene, c'è la portata di mano, salgo sulla volta della battaglia, allungo il braccio e svito PL per dire no, senza nessun problema tu, mi viene anche molto bene per lavorarci, capito? Ma con le antenne vogliono salire un po' di più, andiamo carta. Ciao Luca. Sì, beh, lo so, infatti quando dovrebbe andare almeno a 5 metri da ogni sacco, anche dal tetto, fino a almeno 5 metri minimo dal tetto, però tutto sommato, pretese più di tanto io non ne ho, mi va bene voi di com'è. Quella di Luca. Sì, buonasera a tutti, non so se mi ascoltate, come mi ascoltate, non so chi ci sia, avanti, Giulio Riperito. Sono entrato dal telefono, perdonatemi. Ok, va bene. Sì, hai capito chi c'è, sono io, Antonio e Claudio, avanti con la Luca. Sì, ciao Antonio, ciao Claudio e ciao Giulio. Riprendi Antonio, fa girare, devo mandare una foto a Claudio un attimo, su WhatsApp. Capo, minimo Luca da quel punto lì ci arriva fortissimo. Anche Luca ne arriva abbastanza bene, ne arriva, solo che Luca ha problemi di antenna, nel senso che dovrebbe dargli una revisionata, perché prima io parlo di qualche annetto fa, ne arrivava più forte, ne arrivava intorno ai 9 più 15, sto parlando casa della madre, casa sua, no? Sto parlando. Oggi invece mi arriva meno di 9,10, per cui siamo lì intorno ai 9,5, una cosa così, poi magari modulati arrivo quasi a 9,10, a 10. Però non è il segnale suo o quello di Luca, il segnale suo, io me lo ricordo benissimo, è intorno ai 9 più 15, però quando l'antenna sarà depressionata, cosa che lui ha deciso che prima o poi la farà, capito quel discorso? Vero Luca? Sta mandando un messaggio. Ma pure tu secondo me hai perso moltissimo di ricezione, perché quando eri con la Mantova turbo sparavi anche diversamente e ricevevi diversamente. Sì, è probabile anche quello, tu non escludo che sia anche quello, che dipenda anche dalla mia antenna, certo, perché essendo più in basso probabilmente a qualche punto S l'ho perso sia in trasmissione che in ricezione. Però ripeto, io mi accontento perché mi va bene intanto perché ho un'antenna senza radiali, per cui non ho più il problema del fischio la notte quando c'è vento, eccetera. Allo stesso tempo c'è una portata di mano, anche prima era a dire la verità portata di mano, perché ti spiego subito il motivo, perché io quando salivo sul tetto, io lungo il muro perimetrale del tetto, essendo le case della stessa altezza qua, uno fiancato all'altra, non c'è pericolo, mi avevo fatto una passerella, dunque quando io passo lì lungo il muro perimetrale avevo messo delle tabelle e passavo lì, non c'era bisogno di passare sulle tegole, mi sono tirato su, sì che arrivavo tranquillamente sia all'antenna della radio sia all'antenna della televisione, senza passare mai un piede sulle tegole. L'avevo fatto apposta proprio quando stavo costruendo la casa, per quel motivo. Capito, Antonio? Ma tu allora le tegole non ti si fasciano quando sono un po' così, un po' pericoloso. Hai fatto benissimo, hai fatto. Sì, ma tutto questo, perché l'ho potuto fare tu? Per il semplice motivo che, come ti stavo dicendo, le case sono aderenti in aversa l'uno con l'altra qui, tutti alla stessa altezza, per cui non c'è pericolo. Se dovessi per dire sbagliare, al massimo metto il piede nel tetto degli altri per dire, ma non si cade, io sono tu, ecco cosa intendevo dire. L'ho potuto fare solo per quello, se no non avrei potuto fare questa passerella, o perlomeno l'avrei potuta fare molto larga, invece ho fatto una passerella di 25-30 cm, e tanto per poterci passare sul mio muro, perché il muro è a blocchetti, sì che ti puoi immaginare, tutto lì a tu, capito? Ma tu beh, ecco, non ti dirò che non godo, piazza Donatella, cioè almeno sei sicuro. Ma perché dovrei montare tu? Cosa c'è lì? Cosa stai dicendo qua? Ehi, dovrei montare tu, dove ho visto io, cosa c'è lì? Muretto c'è. Tu cos'è che c'è la sinistra? E da montare della sinistra, lì c'è la rotonda, e quello è il portavolo. E dunque c'è un muretto di quanto sarà? 90 centimetri, non di più. Tu metto due rete con tesseratore, di quelli con corda di espansione, i tassetti sono lunghi 20 centimetri minimo, due strade che avevo comprato da Bicome, ma sono fortissime, sono dentro un bocchetto, no? Cioè il davanti è 90 centimetri, non di più, come una finestra normalissima. E dunque è attaccata lì. Del piano della mattina, perché il poggiolo, cioè il terrazzino, è dello stesso livello del pavimento della mattina, è tutto un tetto o qua. Ah sì sì, no, ma si vede che è bassa, si vede che non sono venuto lì, ho visto. No, ma va bene, c'è un segnalone qua, cosa andare tu, va bene, no, bisognerebbe mettere. Quella è ottima per lui, no, non crea problemi, non ha radiali, non fischia, capito, no? Io adesso dovrò vedere perché qua è sul tetto e io sono a piano basso, quindi non sento niente, ma lì quando vado nell'altra casa, che il tetto è basso, io l'antenna praticamente se fischia la sento, quindi dovrò decidere cosa fare anch'io, non lo so, adesso vediamo. Cioè non so come scende l'antenna di radio giù a Fribosa, poi vediamo. Riprendi anche tu. Ehi capo, già c'è sempre un'alternativa, non è un problema. Ma non penso che ti disturberà. Poi come la metterai alta un po' tu, no? Non penso che fate il casino, no? Hai visto qua, un affare? Sì, molto bella lui, molto molto bella veramente, sì. Molto molto bella, è simile a quella nuova che ho preso io, però quella mi sembra un po' più grande. Molto bella, sì. Tu, io devo vedere, non è che io lascio che bisogna, già ne ho io spazio da metterla, non è che c'ho tutto il muro di cinta del giardino, quindi posso metterla lì, lontano dalla casa, posso metterla sul tetto, posso metterla in facciata dietro, sempre staffata e tirata su con i pali, non è un problema quello, però ti ripeto, devo vedere, non è una cosa che sto pensando adesso, quello che devo fare ai baracchini, non mi sa farlo, non mi sa lo baracchino, quando sarà deciderò cosa fare, ma sicuramente le decisioni sono quelle, cioè non è che un'antenna può disturbare il sonno, capito, perché l'antenna va così messa come c'ha Giulio la Game Master e fischia, non è venuta da là, fischia tantissimo, tu chiaramente la senti. Io ti ripeto, non sento niente, neanche con le direttive che fischiavano lo stesso, perché me l'aveva detto quella dell'ultimo piano, che sentiva questo fischio la notte quando c'era il vento ed erano le antenne. Quindi, però io non sentivo niente, che sicuro abbiamo lascio tutto qua. Avanti, Lucarie, riprendi. Lucarie. Capo, sicuramente sarà così, non lo so. No. Ci abbiamo bruciato lì, che mi raggio in alta un gabbo, ci abbiamo cuttaglioso. Ah, mamma già non mi disturba. Ma non fischia ancora tua, come quella di Giulio, perché non ha radiali. Chi fischia? È il vento che gira intorno ai radiali, capito? Fatti più mulinello, mi. Ed è per quello, vero Giulio? E allora, è quello, com'è quello, tanto più che i radiali sono dei tubi da 10 mm di diametro, dunque sono vuoti, non è proprio un radiale pieno, è un tubo da 10 mm di coso, sono resistenti, perché tante volte ho visto anche i piccioni che si posavano sopra, anche 3-4 piccioni, anche 5, tutti su un radiale, e non hanno mai tirato, ho visto che è abbastanza resistente. Però col vento vibrano e suonano e poi anche perché, mi spiego, allora, nel muro dove era piazzata l'antenna prima è lo stesso muro, scendendo naturalmente verso il basso, dove io ho il letto, praticamente lo stesso muro in posizione verticale di conseguenza in mezzo attaccata a quel muro, adesso non lo so se le sentivo perché il muro stesso, sul muro stesso risuonava, ok, non lo so, so solo che era una cosa, era un tormento, il rumore era fastidiosissimo, alle 2, alle 3 di notte mi svegliava proprio perché il vento quando era forte, quando non c'è vento va benissimo, non c'è problema, ma quando c'è vento era micidiale, guarda. Perché ci sarebbe voluto un qualcosa, tipo la 827 dell'Assirio, che ha il disco per sostenere il radiale, probabilmente quelli non fischiano. Però come fai a inventare qualcosa? Non c'è possibilità di inventare niente, non è che posso fare il legno o una raggiera per tenere, assolutamente no. Ecco, il problema è quello, probabilmente anche perché io ho letto praticamente nella stessa direzione del muro dove c'è l'antenna, sarà per quello qua. Sì, ma è così, niente da fare. Ma da sempre, perché mi ricordo mamma, quando io modulavo a casa di mia madre a Porto Torres, e avevo la Super Range, aveva 3 radiali, tipo la Mantova, no, la Mantova 5, però aveva 3 radiali lunghi così, lo stesso in alluminio. E mamma ci metteva sempre che fischiava, perché la casa era singola e quindi fischiava. Il bruscio che v'è durante la gabituria, e io poi gliel'avevo detto, ma è l'antenna del baracchino, non è... capito, però da sempre quel tipo di antenne quando c'è vento fa un mulinello e frusciano, fischiano, capito? Quindi l'ideale sarebbe mettere per esempio per me una multibanda senza radiali e usare quella, giusto per fare due chiacchiere, adesso vediamo, ma ripeto, sono tutte prove che dovrò fare con calma e tranquillità, va. Non so come scende né l'antenna da Egitto né arrivare a chi. No, non mi interessa. Avanti, Antonio. Una gaima, piano piano già si fa poi. Capo, ma com'è che non ha di cose? Che io mi raggio sopra un gambo, no? Che mi raggio l'antenna. Non è che se io metto la scala salgo sul tetto, subito c'è un cernaio qua, se avrei avuto il radiale ogni concerto di notte. Sono male che senza radiali questa antenna. E appunto, sei fortunato che senza radiali. Se avessi avuto il radiale, vabbè, se sono corti non le fa niente, però se sono lunghi come quelli della Mantova, soprattutto in alluminio, frusciali. Quindi la fibra è un po' meno, però l'alluminio sì, l'alluminio fa lì, a mulinello e fischia. E immaginate come erano le direttive, magazzino, anche perché ballavano, quindi si sentivano, cioè avendo gli elementi lunghi 6-7 metri, quello più grande era 8,50 metri, quasi 9 metri, ballavano e quindi si sentivano, sentiva tantissimo. Perché io quando salivo su a controllare che c'era molto vento dall'interno della mansarda, che sono le finestre, e vedevo, lo sentivo il rumore proprio degli elementi della direttiva, capito, che ballavano. Quindi fate un sacco di casino, tutto qua. Vai Giulio. Sì, beh certo, così, in effetti è così, l'alluminio vibra e giustamente qualche rumore lo fa, se già lo credo. Infatti i radiali della Mantova sono lunghi 1,60 m e non sono corti, sono lunghi anche, per cui il motivo della vibrazione sarà anche per quello, perché ci sono i radiali lunghi, senz'altro. E però ti posso dire una cosa, con la Vega prima se tutto questo l'ho evitato. E poi tra l'altro devo dire anche un'altra cosa a riguardo della Vega. Allora, attaccata all'antenna TV, dicevo, a distanza massimo, proprio esagerando, ma proprio esagerando, 2 metri, non di più, dall'antenna, sia dall'antenna mia che dalla persona che è a casa in aderenza con la mia, anche lui nello stesso, poi io abbiamo l'antenna TV, non fa la minima interferenza, tu. Devo dire che va benissimo, nonostante che non sia molto alta, anche a riguardo di quello. Io l'avevo tolta, non solo per il fatto che la sentivo io, ma anche perché ho pensato, ma qualcuno prima o poi si lamenterà, perché magari quello che c'ha la casa è una verità la mia, se anche lui sentirà questo vibrare, questo rumore, eccetera. E allora per non inimicarmi nessuno, ho preso e ho preferito togliere dall'altro. E allora sto usando sempre la contento così, sono contento così, mi va bene, no, perché con la mente mi faccio ugualmente, sentire mi sento dappertutto, per cui vedere così cosa posso pretendere. Avanti Claudio. Eia, riprendi Anto un secondo che sto rispondendo a un messaggio. Anto, riprendi? Fai Claudio, non c'è problema, aspetto, già sono qua. Eia, sono qua, sono sceso un attimino in bagno. Ok. Capito tu, per cui va bene anche soprattutto per quello, perché non ti crea problemi, interferenze, niente. Va benissimo così. Perché se io l'avessi messo l'avanzo a turbo o così vicino, adesso io non lo so, non voglio dire una cretinata, però così vicino, come c'è l'ambiente vicino all'antenna TV, probabilmente qualche interferenza l'avrebbe anche creata. Mentre invece prima non lo creiamo perché era distante ed era anche abbastanza in alto rispetto all'antenna TV. Capito a tu? Questo non lo so, se avrebbe fatto l'effetto. Io so solo che con la mia massa tutto questo non esiste, va benissimo così. Vai a tu. Ma guarda, manco la mia. Cioè, non fa interferenza. Guarda, se si sente c'è la TV accesa giù. Se si sente poco, qualche vento accesa, ma la TV sta andando, non mi fa interferenza. Sì, ma certo, quello è importante anche a tu, è importante soprattutto perché è giusto non disturbare nessuno, non a te personalmente, no. E anche a me, perché io sono qua e magari i miei possono essere giù alla TV e guardano e hanno diritto di vedere la televisione senza faccia, senza interferenze, ma soprattutto per il vicinato, per le persone di vicino, soprattutto quello, a me interessava soprattutto quello, perché per me stesso potevo anche andare lo stesso avanti, però il vicinato no, non è così, non lo devi trattare a tu. Lo so, ma molte volte sono la colpa anche da loro, a chi si muore gli si ingabbia un amplificatore ed entra che cosa amara. Ecco, tu hai detto bene, alle volte dipende anche da loro, anche diciamo che molto spesso dipende proprio da loro, però se ci sono problemi suoi, interessante che tu sei in regola, quello, il principio sempre della vita e del vivere in pace è sempre quello, tu fai le cose in regola come devono essere fatte, poi gli altri saranno loro a prendere i provvedimenti e rimediare se c'è qualche problema. Tu mi dirai, ma se la migliore sempre con te, certo, ma se io sono tranquillo, che vado avanti in maniera regolare, normale, senza nessun problema recante agli altri, e allora la cosa devo di mio, devo di me niente, fai quello che ti piace e arrangiati. Tu, è così che devo rispondere. Beh certo, ma ci si può risolvere anche il problema, va bene, se non fa rompere potente, andava. Si può anche risolvere qualche problema, se... ma certo, problemi non me ne so, potente non le devo usare perché non sono nemmeno consentite. Io sto usando, aspetta, mi guarda di nuovo. 10 avanti, 10 avanti, e 10, aspetta. Saranno 8 watt, non di più, anche 8 watt, non di più, guarda, sto uscendo con 3, 4, 5 watt, cosa sto usando? Allora, 3, 4 watt, proprio in questo momento 4 watt, giusti, tanto, vedo che mi stai rispondendo, vuol dire che va bene lo stesso, vai. No, aumenta la potenza, mettila a 10 watt, non la tenere sotto 10 watt con la radio. Lo portiamo su, a te. Ecco qua. Ma che male le fate? 10 centrato, così. La ripresa tanto non si nota nemmeno dal segnale. Ma 10 centrato adesso, avanti. Lasciala 10 watt. 10 watt e tu, quella non si muove. Intanto quando la accendi la trovi sempre a 10 watt. Non è come tu per esempio 40 devi valere un fuoco. Il 430 e il 440 hanno lo stesso funzionamento, quando tu l'accendi a freddo l'hai lasciata regolata a 10 la trovi, mentre il 140 e il 680 devi fare un buco prima di farli. Sì, quello già lo so, quello, ce l'ho, lo utilizzo, ma non sempre. Già ce l'ho avuto pure io uno bellino, ma l'ho venduto adesso. E già lo grattava già. Io ce l'ho avuto solo una volta, me l'ha bruciato l'acqua, c'erano 3-4 anni fa più o meno, e ma già da allora avevo 6747, e poi ce l'ho sempre, però qualcuno non funziona perché è bruciato, per cui sto sapendo, può servire a qualcuno come se si ricambia, eccetera, quando qualcuno ne ha necessità, glielo do volentieri, ma poi non me ne do. Ripeto, no, me l'avevo bruciato insieme all'alimentatore, insieme a due manacchini e insieme anche al router del computer. Ma questo risale già alla roba di 4 anni fa più o meno, all'incirca così. Un lampo l'avevo fatto pure tutti i tappetti a due, l'avevo lasciato tutto attaccato, ma non c'ero, era lavoro, per cui quando l'ho guadagnato non funzionava più niente. Avanti Claudio. Break. Sì, buonasera, sono per un controllo. Avanti. Controllo è 9 più 20 quasi, 9.18, 9.17, una cosa del genere. La radio bassa ma abbastanza pulita, chiara. È bassa la radio? Sì, la radio è bassa. Non è bassissima, però non è la tua radio, insomma, ecco. Va bene, che cosa sto usando il microfono palmare originale? Sì, va più che bene, ma se mi diamo, non c'è problema, va bene, è chiara, è pulita, e dunque, quando si sente chiara, è pulita, e poi non è caso di che sia bombardante, va benissimo così. Adesso sentiamo Antonio, vai Antonio. Capo, se non vedi c'è Radio 5, già va bene, già. Va bene, ok, che c'è ancora in radio? Oltre Giulio, buonasera, comunque, Antonio, poi che c'è ancora? Claudio! Ok, com'è da te lì, contro la sua saponetta? Ah, perfetta, ambulazione, da microfono normale, va bene, processore inserito. Sì, processore inserito, qua. Infatti sono qui che abbiamo mangiato. Quanti di portante bianca, ora, 1, 2, 3, prova. Va bene, non voglio aumentare mai a freddo, però, o se l'ho accesa, va bene. Va bene, Mickey Gay dove ce l'hai? Questa è Mickey Gay al massimo, claro, non l'ho mai già usato. Al massimo. Va bene, modulazione 5 perfetta, chiaramente non è amplificata, era un microfono normale, però va bene, chiara, pulita e ordinata. Vabbè, spiega il camionetto. Sì, va bene, se appunto un massimo di altri, volevo dire anch'io che va bene, non c'è problema. Non è bombardante, però io ti sento benissimo, chiaro, bello, pulito. Poi mi stai dicendo che il microfono è male. Allora ti devo dire che era una merda. Va bene, c'è anche a tu. Ecco, però va benissimo qua, la verità. Ora, questo è sul microfono normale, pesante, va? Che fruscende. Ora, c'è l'altra radio a fianco. Guarda un po'. Va benissimo. No, non si butti lì, fa nessun radio attesa. Ti brucia tutto canto. Manco un portatile. Va bene, Marciglia. Ottimo per la truppa. Ok. Vabbè. Mettici le cuffie! Vabbè, ci attacco il Galaxy, va. Già va bene, non ti preoccupare. 60 secondo me lo metti, ma la giochi, fischia. Io ho sempre avuto fortuna, vabbè. Comunque, è così. Avanti Giulio, riprendi. Ok. Sì, in effetti hai ragione. Se anch'io se accendo una radio qua subito si inizia a fischiare con 60. Invece con l'MB più 4 no. Cioè, mi fischierebbe anche con l'MB più 4. Però se dovessi aumentare il volume dell'altra radio, non di quella che sto usando, dell'altra. Allora, senti, mentre invece 60 ha più sensibilità. È vero, va benissimo, ma se mi dia, non c'è problema, va bene, stavi dicendo, e così si lavora anche un rapporto per quello. Hai già preparato tutto, Massimo Diacchi? Sì? Sì, sì, Giulio, io ho due antenne, ti ricordo, io non faccio altro che passare da una parte all'altra. Questo è il Galaxy, con Turner più 3B. Massimo Diacchi, avevo sentito una cosa che ti voglio dire, non vorrei sbagliarmi, ma questa radio è più bella di quella di prima, non lo so, però a me mi piace di più. No, non c'è problema, va bene, il Galaxy esce bene, l'ultima radio. Va bene, da te, Cla, tutto a posto, sì? Ehi, non cambia niente, uno o l'altro, per me sono uguali. KK, anda bene bella. Ok, un secondino, allora, che mi metto un po' in ordine qua. Vai, Antonio, riprendi. Stavo rispondendo a Sara. Però no, c'era bella anche quella là, l'Italia, che andava bene. No, non manco un portatile nulla, ma in tutta la casa mi ha giudito, non lo so pensare, si caccheduno si vuole stare là, ai nonni, la tenda vicina a me. Proprio di Bruci intende. Beh, non mi sono accorto di attesi di Bruci, come di Gaza, non ce ne farò fare, tu. Purtroppo, aspetta, se capita io alla tua moglie, te la sai, tu, ti metto la portante, ma ti metto a parlare, e ti metti i di difetti di base. Vabbè, sii attento, non si sa mai mi potrei bruciare a caffare. Dopo un po' con i tendi fiaggo i bruciato, intendi, Edo? Non sai che non ho posso morire, aggiungiamo a un buon capo. Cosa hai messo a guardare il capo? 213? No, l'altro. L'H155, va benissimo, quel capo lì va benissimo, non c'è problema. Capo, già c'era anche la potenza già. E l'aggio muro 5 metri, l'aggio mi sono 6 metri, là, 6 metri in capo ciò. E boom, ti puoi immaginare che cosa è, tutti l'antenna è la potenza. È vero, così non hai distrazione, poca niente. Poi tra l'altro quel capo lì è abbastanza schermato, per cui va benissimo, ha poca bassissima perdita, va bene così, vai Claudio. Gappa gappa, eia, Antonio va bene, vai, non ti preoccupare, non hai bisogno di vedere attaccare. Guarda, io sono con la stessa potenza che sto usando Giulio, 10 watt di portante muta e 30... e 35, non ci arriva a 40 modulati, ma la portante muta è quella che conta, quindi 10 watt. Sì, va benissimo, la voglia qua, alla grande, non c'è problema, pure che te l'hai sempre detto, per te va bene anche con noi due, il problema non ce n'è solo. Torniamo sempre alla solita battuta di un annetto fa, forse anche di più, per cui va bene così, a te è un culo di bue e va bene lo stesso. Vero, Massimo Diacchi? I miei vicini ne prendono tanti da me. Molte volte mi dispiace pure perché cavolo, magari non me ne accorgo che sono in frequenza e non comprendo più nulla. Vabbè, ma ricordo che sei ragazzi di Biglia, fuori dei lavori, tu, per me le idee, e d'accordo è così, la frequenza è così, che problemi ci sono. Vengo qua. Allora, forse c'è qualcuno che sta chiamando, boh. Io lo sento. C'è qualcuno? Aspettate, ne approfittiamo ancora della torre. Chi è che chiama Sassari, avanti? Gli altri non ti ascoltano, chi sei? Ah, Rosso da Chiaramonti, ciao, dico, buonasera, ben ascoltato. Sei un po' in mezzo al QRM, ti ho ricevuto proprio per miracolo. Penso che gli altri non ti sentano, Rosso da Chiaramonti, Nicola, avanti Giulio. Ok, non credo che mi senta me. Ciao Rosso, se mi stai ascoltando, ma non credo. Io non ti sento, la verità. Cosa vuoi? Mi prende la ponte qua, ma io non lo sento assolutamente a lui. Avanti, prova tu. Capo, salutone, Rosso da Chiaramonti. Non so se tu mi ascolti, ma io qua non ti ascolto, qua a Sassari. Dico, ma stavi parlando? Sì, tutto in mezzo al QRM, non so se sei dentro Chiaramonti, dove sei, Enrico, ti devi avvicinare, perché faccio fatica ad ascoltarti io che sono qua in alto, figurati gli altri, non ti sente nessuno, Enrico, ti devi avvicinare un po', capito, sei troppo in mezzo al QRM, segnale è proprio basso, ok, avvicinati e poi richiami, vai Giulio. Giulio, guarda che hai combinato qualche cosa, non stai andando meno, ci hai spostato di frequenza o è stato troppo a contento del coso? Guarda un pochettino. È fitta. Questo è col capo, come ho spostato il microfono da una parte all'altra. Sì, ecco qua. Si è agganciato evidentemente. Il capo spiralato, come ho spostato il microfono dalla parte destra alla parte sinistra. E ha toccato evidentemente il potenziometro e ha tirato su il mic gain. E allora stavo strappando. Adesso va bene però. Aumenta un pochino. Così va meglio? Adesso bisogna regolarlo come la prima, io adesso come faccio a saperlo? Me lo dovete dire voi, vai? Il processore è attaccato. Sì, aspetta, si aumenta ancora. Ecco, ho aumentato ancora un pelino, ma proprio niente, perché non vorrei strappare di nuovo, Anto? Fuori girata, confermi, Oca. Cosa, Anto? Adesso va bene, Giulio, vero? Sì, poco fa, non riuscivo a capire cosa stava dicendo, cosa avevi toccato? No, non avevo toccato niente, ho spostato il microfono dalla parte destra alla parte sinistra e col capo spiralato del microfono ho toccato il mic gain e l'ha girato ed era quasi a 2. Ed è per quello che stava andando male. Me ne sono accorto perché ho visto la tassa che era spostata, non era più a 1. Io ho più di 1, non lo posso mettere questo mic gain. Tutto lì avevo qua. Ma so che te lo puoi mettere più di 1. È troppo tirata quella radio. Poi vabbè, quando decidi di mandarla a fare un check-up, un controllo, una cosa, gliela mandiamo e la facciamo fare originale come deve essere, LC normale, senza essere così spinta, perché quella radio puoi sollevare anche il mic gain a 2, a 2,5, no, non va in saturazione se è allineata bene. È troppo tirata, troppo, non si capiva niente, sembrava in banda laterale. Vai Antu. Sì, adesso mi accorto subito che mi ha toccato un qualcosa del genere. Oh Giulia, vabbè, può capitare, dai. Pure a me è successo. Non devi giusti lì. Ehi, avanti, chi è? Danilo. Buonasera Danilo. Che ha toccato un pochettino più di me che stavo strappando un po', ma adesso è a posto. Sì, buonasera a tutti. Ciao Dani, buonasera, ben ascoltato, un saluto di cordialità e vabbè, può capitare anche a me, a volte mi è capitato lì curendola di toccare il Michigan, ma io ho sempre lo sguardo sulla radio, non è che abbia del muro, sempre lo sguardo sulla radio, soprattutto sullo smitter, sulla strumentazione eccetera, perché magari puoi toccare qualcosa ed è un casino. Avanti Dani, riprendi, vai per Giulio. Sì, no, ero. Stavo parlando con quelli di Porto Torres poco fa, al canale 12. E adesso non so, e sono tornato al canale 10. E niente. Mi sono fatto un giretto a Ceramido un po' Galeddu con la gente di Baesi. Ma tu vai? Ciao Danilo! Sì, ciao! Sì, dai. Dai, io mi allontano che mi hanno chiamato, devo scendere giù, dai, continuate. Vediamo un po' che cosa voglio, poi casomai ritorno. Comunque al momento vi saluto, dai. Evidentemente non so cosa voglio, adesso vediamo, dai. Forse hanno fatto qualcosa di vichita. Ti sentiamo eventualmente dopo, se posso ritornare. Però ritenetemi tutti salutati. Ciao Claudio, Danilo, Antonio, Massimiliano, se ci all'ascolto, Luca, se ci sei e tutti quanti. Dai, io ascolto ancora questo vostro passaggio e poi scendo, perché vado chiamato, dai. Vai a tu. Capo, salutare Giulio, ce la risentiamo alle prossime o più tardi. Avanti qua. Ciao Giulio, grazie delle due chiacchiere a presto. Buon fine serata, buon tutto, saluti a casa. Vai Danilo. Sì, ciao Giulio, ci sentiamo un altro momento. Pure dentro poco io. Ciao. Ok, ciao a tutti di nuovo, ciao, chiudo. Ciao, ciao. Comunque Claudio. Claudio. Claudio, non ci sei, non ci sei. Forse si è distratto un attimo, cioè doveva fare qualcosa. Dai, quando entra lui dico questa cosa, che mi hanno detto che questa radio non va tanto bene domani. Ma chi te l'ha detto? No, poco fa con quelli di Porto Torres abbiamo fatto un paio di prove in AM, FM in banda laterale. In AM gli arrivavo basso come segnale. Ho detto proviamo negli altre bande. Abbiamo provato in FM e in banda laterale, li ho coperti. Sai cosa vuol dire che coperti? Pare che devi scendere con un chilo fatta da reddito. Già ti stiamo ascoltando. Però ricordatevi di trasmettere in USB quando fate le prove 27, che la radio va molto meglio. In USB è sempre un po' così, capito? Già ti stavo ascoltando, tu devi tenere conto sempre che quella radio che hai sotto mano lì, in uso, è una radio che va bene in SSB e in FM. In AM va bene, ma all'80%, non al 100%. Questo lo sai, te l'ho sempre spiegato, quindi. Però che da dire che non va bene, che stai scendo male, non è che sono molto d'accordo, perché ti ascolto benissimo, non è una grandissima ondulazione, non è una grandissima spinta rispetto, per dire, a questa che sto usando io, che è il mitico Kenwood 430, come tutti gli altri Kenwood, che vanno bene più degli altri in AM, ma non è, uno può dire stai uscendo male, assolutamente, stai uscendo bene, ma non ai massimi livelli, ecco, questo si può dire, ma dire che uno sta uscendo male è una cosa un po' così. Sì, no, infatti qualcuno mi ha detto che non gli piace la modulazione, ma è in AM, e mica è colpa mia se questa radio, il compressore in AM non agisce, non è colpa mia, è il processore pure. Comunque, poco per eravamo in USB, non in LSB, eravamo in USB. Abbiamo provato a dare due colpi anche in LSB, però non mi piace molto. Anche perché uno, come l'ha messo in banda laterale, è uscito fuori frequenza. Anche perché stavano usando baracchini normali. Però stavano usando veicolari. Le donne di Uniferi ti fanno gli occhi neri. Beh, per bella. Ehi, no, vi stavo ascoltando. Non c'è problema, però ti ripeto, come tutte le altre radio, non è che solo la tua, perché è un ICOM e gli ESU in AM non sono portati ad avere la modulazione che c'è al Kenwood, non c'è niente da fare. Io l'ho riscontrato tanti anni fa e ho tirato avanti col Kenwood, non mi interessa. Niente da dire, per carità, quelle radio, perché sono ottime radio, il funzionamento, però ha un funzionamento in AM che non hanno curato, tutto lì. Però non è che uno può dire stai uscendo male. Non mi piace la modulazione in AM perché non ha la spinta che deve avere, come c'è al K, tutto lì. Però è molto molto bella la tua radio, non ti preoccupare, è bella chiara, non è fortissima, ma è bella pulita, ordinata, effetto presenza, le tonalità ce li hai, quindi non c'è niente da dire. Vai Lucariello, noto per il Vella. Avanti, che stava fischiando sotto di Claudio, chi è? Io, gli ho messo la portante. No, ciao Massimiliano, non penso che sei giorno. C'era qualcuno che stava fischiando, chi è avanti? E di lì approcciarmi è un'altra cosa, lui. Tanto se non passa, ha paura a bruciare. Ma che peso va a ginocchi? Sì, ma sotto, mi pare che te la prendi io. Che te la grattendi a culo, fa grazie. No, già è vero, quel fischiettino. pochino leggero leggero già si sentiva. Basso ma si sentiva. E beh Danilo, ciao Massimiliano anche, e beh Dani. E allora lui, e te mi conta già? Uno, due, tre, quattro, cinque, no, dimmi tu quanto devo arrivare, arriva a 6 voi mi, a 7, voi dimmi tu, avanti Massimiliano. Papa, ciao Danilo, ciao Luca, sono ritornato, no, scusate se mi avete chiamato ma mi sono allontanato. Oh, però posso dire una cosa, io di questo baracchino sono contento, perché prima c'era questo smith che funzionava male, e adesso lo vedo come un baracchino, come se abbia comprato un altro baracchino, però era fastidioso, questo smith si bloccava, mi veniva l'Alzheimer, guarda veramente, è come se abbia comprato un altro baracchino. Di lusso. Questo cos'è? Il 2009? No, questo è il Typhoon Massimiliano. Quello, il primo baracchino lo usavo sempre con MB più 4, infatti voglio procurare un MB più 4. Adesso vediamo, ora lo voglio mettere qua, così sono anche amplificato. È bello, io avrei buscato un Sadelta invece, secondo me è bello il Sadelta. Va bene, avanti Spalvier. Ci va di chiedito lui, li avete tutti, facciamo più 4, più 5, li avete tutti assieme ai baracchini, sono molto regalato, devo già, cioè non è più. Non ha più, cioè quello del Galaxy e basta come microfono a tavolo, e poi 60 e 50. KK, va bene, e io niente. Perché Dani basso ti sto arrivando? Basso, sei a 9.30. Radio 5, è basso, vai benissimo. No, sì, scusa Dani. No, claro, io a Riga non voglio nulla, che la moglie pensa, niente che voglio la cosa a Riga, io la cosa a Riga non ne voglio. E tu che andrò a Bessa, ne fate bissà. No, assolutamente, se io devo dire una cosa, arrivare è buono, non sono lì a... capito, capisci a me, capito? E vabbè, io regalo una cosa a te, tu regalo una cosa a me, beh, a me così, va bene così allora. KK, sì, vai Antonio Bombolo. Aspetta, Antonio, dai, tanto lo lascio con la mano sciacquata, però, c'è la mamma la va a cagliare. Cla, io ti regalo una baby svela, ma te la regalo al frigo, se tu mi regali una baby più 4. E avanti Antonio. KK, ecco qua qui la via cosa. Vai, avanti, vai. Mi giravate quattro voci già oggi, quattro voci. Ma lì sono per Maieva, Rugovina, se cazzo, boh, troppo ti stai lavando lui, una volta alla settimana va bene, avanti Massimiliano. Aspetta un secondo, Cla, che sto aggiustando la calcolatrice a Daniele, aspetta. No, ma cosa Cla, no, non di cazzate, io oggi bannuta, perché avevo impegni, vabbè, ma comunque, uno quando si lava ogni giorno, lui è pulito. No, vabbè, adesso mi tocca, è arrivata l'ora giusta. Dai, mi assento, arrivo subito, a dopo. Comunque trovo letto, poi ti ho fatto una proposta, se tu mi regali le MB più 4, io ti regalo le apertivano dello zip. Però io voglio che sia cromatta, Eia, cromatta, con gommino pure talo, eia, dimmi, azzardo. E dove sei tu? No, sto facendo roba, sono in cantina, vi ascolto. Un abbraccio a tutti. Tu mi segnalone, la massa ti svaria, un segnalone assurdo, buh. Si attaccato a te per forza, ciao Antonio Riserva. Ridi. Tanto prima o poi te la regaliamo anche a te la periferia col gommino nero. No, stavo pensando che ce n'è uno di motore in campagna con la pedivella attaccata, tali mentre gliela do io la pedivella, se mi danno più 4. No, a te ti danno più 5. Ai caro, quanto sei tesoro. Ciao, un abbraccio grande, stai in cantina, stai. Avanti Danilo di Sant'Orsola. Ah, il nome è nuovo, il nome è tipo nuovo, io tu. No, comunque un Sadelta ce l'ho ancora a me. Chi lo vuole, ci faccio avanti. Oh Dani, mandami le foto, là. Scrivimi su WhatsApp, non scrivere niente su baracchino, scrivi qua su WhatsApp. Sul baracchino mi sa che mi viene difficile scrivere. Se no te ti mando il CV doppio. Col PTT te lo invio. Oh azzardo, guarda WhatsApp. Aspetta che devo salire su a prendere il telefono. passerà presso il vostro telefono. Ma non mi basta tu sabato a piattini da cosa? Boh, venari, boh. Lo sai, qui ho incontrato una tipa, due tette, non ti dico nulla, cazzo, la sua chissà cosa. Sì, ma sarà tu, questa tipa con due tette che...